Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Faccio subito il nome, Svetlana Alexievich. Fino a qualche tempo fa questo nome diceva poco a noi italiani, poi lei ha vinto il Nobel per la letteratura nel 2015 e devo dire che le sue opere sono state decisamente più conosciute anche in Italia. Lei è una giornalista e scrittrice bielorussa di lingua russa. Vi parlo un po' di alcuni suoi libri, insomma parliamo un po' dell'opera omnia. Allora, uno dei libri forse che mi ha colpito di più fra i suoi è Preghiera per Chernobyl, pubblicato in Italia dalla EO, nel quale racconta che cosa accadde ai sopravvissuti del disastro nucleare. Poi ancora Ragazzi di Zinco, sempre pubblicato da EO, sui ragazzi russi che avevano combattuto in Afghanistan e spesso tornavano in patria morti, quindi appunto proprio in casse di zinco. Poi c'è il grande volume Tempo di seconda mano, la vita in Russia dopo il crollo del comunismo, pubblicato in Italia da Bompiani. In questo Svetlana Alexievich racconta come il popolo russo non abbia, diciamo, seguito l'intelligenza russa dopo la caduta del regime. Racconta di come, per esempio, la parola libertà sia diventata sinonimo per la gente di consumismo e non di accesso a vere e proprie forme di libertà democratiche e politiche. E poi ancora La guerra non ha un volto di donna, pubblicato da Bompiani. La Seconda Guerra Mondiale raccontata attraverso le testimonianze delle donne russe che vi presero parte, ma proprio attivamente, nel senso che furono donne che andarono fisicamente a combattere in trincea. Caratteristica dei libri di Svetlana Alexievich è proprio il modo, diciamo lo schema con il quale sono scritti. Sono tutti una raccolta di testimonianze di persone comuni che poi lei trasforma naturalmente in modo narrativo. E questo perché secondo l'Alexievich la storia, diciamo quella che leggiamo nei libri, quella con la S maiuscola, viene scritta dagli uomini di potere, dagli uomini che sono al comando, mentre lei vuole raccontare la storia delle emozioni, di quelle emozioni che sono state vissute dai protagonisti di quegli eventi storici. E allora così nascono libri, devo dire, molto duri proprio perché veri, libri nei quali Svetlana Alexievich riesce a farsi raccontare dalle persone proprio i fatti più crudi, ma anche le emozioni che erano state provate. Diciamo che l'Alexievich riesce ad arrivare alla verità emotiva delle persone. Ed è proprio da questo suo modo, da questo suo schema, questo modo di scrivere i libri attraverso le testimonianze, diciamo da questo marchio di fabbrica, che è iniziata la nostra intervista. Sentiamo Svetlana Alexievich. Ad essere sinceri, questo genere esisteva già nella letteratura, sia russa che bielorussa. Magari non è esattamente lo stile in cui scrivo io, però il desiderio di interrogare la gente e credere al testimone esisteva già prima. Già nel periodo della Prima Guerra Mondiale, la sorella di Misericordia, Sofia Fedorchenko, registrava le conversazioni dei soldati nell'ospedale dove lavorava. Anche lo scrittore bielorusso Aliés Adamovich ha scritto, in cooperazione con altri scrittori, un libro a mio avviso geniale, «Я из огненной деревни», che descrive come i tedeschi bruciarono le campagne. Io sono cresciuta in campagna dopo la Seconda Guerra Mondiale e ascoltavo le donne parlare di guerra, del fatto che i loro mariti non tornarono a casa, dei partigiani. Percepivo la storia attraverso le voci femminili, siccome non c'erano più uomini in campagna. E questo mi dava sensazioni più forti dei libri. Al giorno d'oggi la gente sembra delusa dalla letteratura inventata, dalla fiction. È rimasta la fiducia solo nelle testimonianze reali, cioè in ciò che accadeva veramente e nelle persone che l'hanno vissuto. Ho messo insieme tutto ciò e penso che sia proprio questa la mia strada. In tutti questi anni lei ha incontrato tantissime persone per scrivere i suoi vari libri. Su Chernobyl, sulla Seconda Guerra Mondiale, sulla guerra in Afghanistan. Molte di queste conversazioni si sono svolte in cucina, perché in Russia la cucina è il luogo dove avvengono le conversazioni e anche le confidenze. Come fa ad arrivare al nocciolo duro, insomma, delle confidenze dei suoi testimoni? Immagino che all'inizio siano un po' perplessi magari. Come fa ad arrivare alla loro verità. Una volta ho letto che lei ha detto: devo pulire l'anima dei testimoni. In che modo lo fa? La cucina è un posto veramente speciale nella cultura russa, perché tutto ciò che è intimo, emozionale, le cose più importanti, ecco, accade tutto in cucina. Magari la ragione è che non sono mai esistite piazze grandi, la nostra gente non ha mai avuto appartamenti spaziosi e perciò l'unico posto in cui si poteva bere un bicchierino di vodka oppure una tazza di tè, cantare una canzone, leggere poesie, parlare con gli amici era la cucina. Questo attribuiva un tono speciale alle conversazioni. E ovviamente sono sempre stata portata in cucina. Secondo le usanze russe mi offrivano qualcosa e poi si cominciava a parlare. Non sempre la conversazione iniziava come volevo io. La parte più difficile era togliere una specie di velo di banalità, perché la gente dipendeva dal periodo storico, da un canone specifico, da certe idee. Cercava all'inizio di parlare come si deve, percependo poi la mia curiosità umana, la mia sincerità e la mia voglia di ottenere le loro storie vere, iniziavano a raccontare ciò che realmente era successo e non ciò che doveva essere raccontato. Ma poi si agitavano e dicevano: guarda che queste cose le abbiamo raccontate a te privatamente per farti capire com'era, ma tu non devi scriverle. Lo sai, no, come si fa nei libri. Per rendere alcuni racconti veramente profondi, tornavo dalla stessa persona 5, 7 volte, tante volte. E se nel libro rientrano 200 e passa storie, durante i 7-8 anni di stesura del libro ho intervistato circa 1000 persone. È stata una scelta difficile. Le persone che intervistavo spesso mi dicevano che nessuno aveva mai posto loro alcune delle domande che facevo io. Sono altre le cose di cui si scrive. A cosa ti serve? Ah, se è soltanto per te. Ero giovane all'epoca, allora ti racconto. Loro non credevano che la verità che interessava a me avesse il diritto di comparire in un libro. Loro si sono abituati che la verità sta da una parte e le loro vite da un'altra. A volte dicevano: sai che questa cosa non mi tornava in mente da 50 anni? Non credevo proprio di ricordarmela. Per molti di loro le mie domande erano inaspettate, nonostante fossero stati intervistati da altri giornalisti prima di me. Mi dicevano: ma questo devo raccontarlo? Questo lo posso raccontare? Le persone sembravano scisse in due. Da una parte la loro verità, ciò che accadeva in realtà, e dall'altra parte la grande verità della grande vittoria, che purtroppo aveva poco di umano. Facciamo una breve pausa e poi riprenderemo ancora ad ascoltare l'intervista a Svetlana Alexievich, premio Nobel per la letteratura del 2015. Il cacciatore di libri. E riprendiamo ad ascoltare l'intervista a Svetlana Alexievich, premio Nobel per la letteratura nel 2015. Nella prima parte abbiamo sentito un po' qual è il suo modo di scrivere libri, cioè di scriverli attraverso le testimonianze delle persone comuni. Lei passa veramente tanti anni prima di pubblicare un determinato libro, un libro su un determinato tema, perché attraversa tutta la Russia, attraversa il paese, intervista, ascolta le persone, passa molto tempo con loro perché vuole arrivare veramente alla verità delle singole persone. E allora riprendiamo ad ascoltare questa nostra intervista a Svetlana Alexievich. In uno dei suoi libri, La guerra non ha un volto di donna, lei fa capire come tante donne russe abbiano partecipato attivamente alla Seconda Guerra Mondiale. La cosa che mi ha colpito è che in molte di queste testimonianze si vede come in queste donne fosse rimasto impresso la prima volta in cui avevano ucciso un essere umano. Non succede la stessa cosa negli uomini. Noi viviamo nel mondo delle idee maschili sulla guerra, dove l'omicidio è visto come atto legale e giustificato. La donna ha un'idea completamente diversa. Non viene educata alla cultura della guerra. Nessuno le dice: quando crescerai diventerai un soldato e morirai per la patria, che è quel che si diceva un tempo dalle nostre parti. La donna non viene preparata ad uccidere. Era un periodo tragico. I tedeschi assediavano Mosca e sembrava che da un giorno all'altro la capitale sarebbe caduta. E queste ragazze sono state educate nel periodo sovietico. Il periodo sovietico ha fatto tantissimo per l'emancipazione femminile. In questo il potere sovietico ha fatto un gran lavoro. L'uguaglianza tra uomo e donna. Ciò non si verificò né nel periodo precedente né in quello successivo al governo sovietico. Quella fu una generazione sovietica straordinaria, mai esistita prima. Era gente che davvero credeva fortemente nel potere sovietico. Poi questa fede sparì gradualmente, ma all'epoca era molto forte e loro erano veramente pronti a morire. Quando le donne hanno cominciato a parlare della guerra, mi ha colpito molto il fatto che la descrivessero in modo completamente diverso rispetto agli uomini. La donna è programmata diversamente, non è programmata ad uccidere, non è programmata per stare di guardia di notte a un cimitero, non è programmata per gettarsi nella mischia. E loro, le donne, hanno visto la guerra con occhi diversi. Nei loro racconti la guerra è tanto più terribile. Faccio un esempio della differenza tra la percezione maschile e quella femminile. Il racconto di un soldato uomo. La nostra nave andò in battaglia e affondò. E si trattava di circa 200 soldati. Il racconto della donna. I nostri ragazzi andarono in battaglia e la loro nave affondò e seduta sulla riva vedevo molti berretti galleggiare sull'acqua. Quest'ultima descrizione è più emozionale, più forte. Ti immagini subito la scena. E io mi ricordo ancora adesso quella donna che mi raccontava la storia dei berretti, perché era un'immagine molto forte, spaventosa. In uno dei suoi libri, diciamo forse più famosi in tutto il mondo, Tempo di seconda mano, lei racconta quello che è accaduto alla Russia dopo la disgregazione dell'Unione Sovietica e lo fa sempre dal punto di vista delle persone. Lei dice, fra le varie cose in questo libro, che voi intellettuali negli anni 90 avevate creduto alla possibilità di un cambiamento, della libertà. Ma in realtà il popolo non è stato con voi, perché per il popolo libertà voleva dire trovare il salame, le banane al negozio, cioè avere l'accesso a dei beni materiali. Quindi voi siete rimasti delusi. Cos'è che non avevate capito del popolo in quel momento? Per circa 30-35 anni sono andata avanti a scrivere il libro sull'Impero Rosso. Scorrevo i momenti principali della storia e studiavo il fenomeno dell'uomo sovietico. La gente, compresi noi dell'intelligenza, sin dall'epoca zarista idealizzava il popolo e colpevolizzava soltanto il governo, sognando di cambiarlo. Stavamo nelle nostre cucine, sognando di come avremmo cambiato il governo. Quando giunse il momento della perestroika, pensavamo che fosse importante far leggere alle persone Solženicyn, Shalamov, un'altra verità sui lager e che in tal modo sarebbe avvenuta una catarsi, un rinnovamento del popolo. Quando poi tutto ciò è accaduto, la gente è scesa in piazza al grido di libertà, libertà, ma non avevano la più pallida idea di cosa fosse questa libertà. Sugli scaffali delle librerie c'erano già Solženicyn, Shalamov, ma nessuno corse a leggerli. Si catapultarono tutti ad assaggiare la nuova vita. I biscotti nuovi, le macchine per il caffè nuove, le auto nuove, tutto nuovo. Aveva ragione Shalamov, che aveva passato circa 17 anni nel lager, quando diceva che l'uomo, appena uscito dal lager, non può diventare libero da un giorno all'altro. Il lager seduce sia il carnefice che la vittima. È una caduta generale. Si è scoperto che la libertà interessava solo a Gorbaciov e a una cerchia ristretta dell'intelligenza. Il popolo sognava soltanto una vita migliore. Il popolo russo non era assolutamente pronto al capitalismo, ma sognava un socialismo con un volto umano. L'uomo rosso non era pronto ad accettare una vita nuova in cui si lavorava tanto ed esistevano la concorrenza e l'ingiustizia. Non era pronto a questa vita più di quanto fosse pronto al lager. Nella cultura russa non esiste il culto del denaro. Al giorno d'oggi gli imprenditori stranieri aprono imprese in Russia e assumono lavoratori russi, la metà dei quali dopo 6 mesi si licenzia, perché in queste fabbriche si lavora di più e quelle piccole somme possono essere guadagnate anche nei kolkhoz. Nessuno sapeva che la strada verso la libertà è lunga, che in Europa la libertà si è costruita da secoli. Il popolo voleva la festa subito. E proprio da ciò ha origine la delusione verso i democratici, i liberali. La richiesta di mettere sotto processo Gorbaciov accusandolo del crollo dell'URSS. Tutto ciò dimostra la nostra impreparazione a questa nuova vita. Nel libro si può notare la tendenza a idealizzare il passato sovietico. Il futuro spaventa, richiede nuove capacità, conoscenze, caratteristiche, grandi cambiamenti. E l'uomo non è pronto. E infatti lei dice anche che il popolo russo, l'uomo russo, l'homo sovieticus, ha sempre nostalgia dell'uomo forte. Putin ha approfittato di questo sentimento popolare e lei lo critica spesso, infatti. Parlando con un dissidente russo, Kasparov, che lei naturalmente conoscerà, mi ha detto che per lui Putin è addirittura peggio dell'ISIS. Anche per lei è così o è una posizione troppo forte? No, assolutamente. Penso che Putin non debba essere demonizzato. Il problema non si annida solo nella sua figura. Il problema riguarda un Putin collettivo. Putin ha accumulato in sé i desideri di migliaia di persone, umiliate e derubate. Non è Putin, ma la Russia di oggi che non è pronta ai cambiamenti. Oggi la Russia è governata da persone che erano marginali negli anni 90. All'epoca avevano paura di aprire bocca. Era così assurdo tutto ciò che dicevano. E oggi sono loro a governare la Russia. La Duma di oggi emana leggi in continuazione, a tutela della Chiesa, contro gli omosessuali. Per esempio era stata proposta una legge che proibisse ai genitori di picchiare i propri figli. Ma la Chiesa ortodossa si è detta contraria, sostenendo che interferiva con i precetti biblici, che quelle sono questioni di famiglia. È calata una tale oscurità che viviamo con una sensazione di sconfitta. Ricordo quelle migliaia di persone che abbattevano i monumenti a Dzerzhinsky, che andavano in piazza e urlavano «Libertà!». È la stessa gente che oggi inaugura i monumenti a Stalin. Открывает новые памятники Сталину, опять бюсты Сталину. Questa era Svetlana Alexievich, premio Nobel per la letteratura del 2015. La traduzione dell'intervista è di Alina Masla e Roberta Sala. Ora vi posso dire che l'Alexievich sta lavorando a due nuovi libri, uno sull'amore e uno sulla vecchiaia e la morte. Questo sull'amore mi ha un po' stupito, infatti le ho chiesto, ma insomma Svetlana, lei che ha scritto sempre cose molto dure, appunto Chernobyl, la guerra in Afghanistan, la seconda guerra mondiale e così via, perché ora un libro sull'amore? E lei mi ha risposto seccamente, perché anche l'amore è una guerra. Bisognerà aspettare qualche anno per leggere questi libri, perché Svetlana Alexievich, proprio perché raccoglie le testimonianze vere delle persone, dei russi, quindi attraversa tutto il paese, ci vuole un po' di tempo appunto per scrivere ogni libro. E per questa puntata speciale estiva del Cacciatore di Libri è tutto. Diciamo che con questa domenica si conclude l'appuntamento del sabato e della domenica mattina, ma naturalmente i libri non vi abbandonano, perché rimane nel palinsesto autunnale di Radio 24 sempre l'appuntamento con il Cacciatore di Libri, ogni sabato alle 6:30 per i mattinieri e alle 22 per tutti gli altri. Ma insomma, indipendentemente dall'orario, vi ricordo che trovate tutte le puntate in podcast su radio24.it, quindi insomma potete ascoltarle all'orario che più vi conviene. Grazie in regia a Pietro Lacorte. Vi ricordo che se volete sempre essere aggiornati sui libri di cui parliamo, potete seguirmi su Twitter. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.